Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi vi raccontiamo una storia di riscatto, di emancipazione. È la storia di due donne che in tempi e modi diversi, eppure carichi di sorprendenti analogie, hanno rappresentato con fierezza speranze di un popolo, di una minoranza culturale. Incidentalmente, questo è anche un racconto di cronaca nera, le cui conseguenze hanno di certo pesato sulle vite delle nostre protagoniste. Due vite simili, legate in maniera indissolubile dalla speranza, dal trionfo e dalla tragedia. Come spesso accade, è l'America il luogo d'elezione dove le speranze fioriscono o si inabissano, dove i sogni sbocciano o si infrangono, segnando per sempre, nel bene o nel male, le vite di chi prova a raggiungere l'Olimpo del successo. Si parla di America, ma si intendono gli Stati Uniti. Tutto il resto del continente resta spesso avvolto nell'oblio, e con esso la sua gente, milioni di Latinos, la cui storia, per certi versi, è simile a quella dei neri, solo meno nota e spesso senza lieto fine. I Latinos non hanno avuto un Martin Luther King ispanico che si prendesse cura dei loro diritti. Eppure anche loro hanno sete di cambiamento. La storia di oggi ci insegna che l'emancipazione non passa necessariamente attraverso grandi discorsi, proclami, marce pacifiste. A volte, come nel nostro caso, basta un concerto. Sono le 8 di sera del 26 febbraio 1995 al Reliant Astrodome di Houston, Texas. Una giovane donna fa il suo ingresso a bordo di una carrozza bianca trainata da cavalli nello stadio gremito da quasi 67.000 fan adoranti. Sono tutti lì per lei. Ha solo 23 anni, eppure sa già farsi carico delle speranze e dei desideri di decine di migliaia di persone. Non lo fa attraverso la politica, ma con la forza dirompente della sua musica. Non è una cantautrice impegnata, ma solo una ragazza le cui canzoni parlano d'amore e buoni sentimenti, che ama divertirsi e far divertire. Il suo nome è Selena. Selena. Quel 26 febbraio, 67.000 persone assistono al concerto più affollato della storia dello Houston Astrodome. Né loro, né la loro beniamina, la star del pop Selena, possono immaginare che di lì a un mese le loro vite cambieranno in maniera drastica. It happened at a Corpus Christi Days Inn. È successo al motel Days Inn di Corpus Christi, Texas. La celebre Selena, cantante texana, vincitrice di un Grammy Award, una 23enne spesso descritta come l'equivalente ispanico di Madonna, è stata uccisa oggi. Quello che avete appena sentito è il telegiornale del 31 marzo 1995. La giornalista annuncia la morte di Selena, uccisa con un colpo d'arma da fuoco in una stanza di un motel di Corpus Christi, Texas. Cosa ci faceva Selena in quell'albergo? E chi è stato a spararle quell'unico colpo fatale? Prima di rispondere a queste domande, è meglio fare un passo indietro e conoscere più da vicino la nostra prima protagonista di oggi. Selena Quintanilla Perez nasce a Lake Jackson, Texas, il 16 aprile 1971, da padre messicano e madre messicano-americana. I Quintanilla si trasferiscono presto a Corpus Christi, dove Selena passa buona parte della sua vita, e soprattutto dove ha inizio la sua carriera musicale come cantante del gruppo Selena e Los Dinos. Il padre, Abraham Quintanilla Jr., aveva fatto parte del nucleo originale dei Los Dinos, gruppo musicale che univa il rock and roll alle musiche tradizionali messicane. È proprio questa la quintessenza del cosiddetto Tex-Mex, la contaminazione. Che si tratti di cibo o di musica, il Tex-Mex riunisce ed armonizza le caratteristiche salienti di due paesi confinanti, gli Stati Uniti e il Messico. Abraham Quintanilla intuisce presto il talento della figlia e decide di coltivarlo, trasformando il garage di casa in una sala prove e dando vita alla seconda generazione dei Los Dinos. Selena al microfono, la sorella Susetta alla batteria, il fratello Abe al basso. E lui stesso a raccontarlo. Il garage de carro. Avevo completamente chiuso il garage ed avevo appeso tappeti alle pareti per evitare che i vicini fossero disturbati dal rumore. Così potevano usare il garage per le prove. Quando tornavo dal lavoro, ogni giorno mi esercitavo con lei. Selena si esibisce in pubblico già all'età di 8 anni, volteggiando con fare esperto sul piccolo palcoscenico del ristorante messicano del padre, il Papagayo. In seguito al fallimento del ristorante e alla conseguente bancarotta, però, il signor Quintanilla è costretto a trasferire famiglia e strumenti musicali sull'autobus Big Bertha, dove Selina passa praticamente tutta l'adolescenza, spostandosi in tournée di città in città. Si esibiscono ovunque capiti, agli angoli delle strade, ai matrimoni, alle fiere, spaziando tra i più diversi generi musicali. E Selina, la cui lingua madre è l'inglese, impara lo spagnolo un po' alla volta, cantandolo. Un carro viejo que viene pitando, voy a hacer que el triciclo y el motor al revés. En la esquina yo esperando, como siempre su novia bien. Mis amigas se están burlando, murmura cosas de él. Carcacha, paso a pasito, no dejes que tambalear. Poco a poquito, no nos vayas a dejar. Cargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Selina è intelligente e creativa, le doti giuste per eccellere a scuola. La sua crescente popolarità e la sempre maggiore richiesta di esibizioni, tuttavia, cominciano a interferire con l'educazione scolastica. Il padre decide allora di toglierla dalla scuola e di farle continuare la sua educazione per corrispondenza. Più ci addentravamo nel mondo della musica, più diventava difficile per lei frequentare la scuola. E così ho ottenuto il permesso del distretto scolastico per toglierla da scuola. L'educazione di Selina e dei suoi fratelli, dunque, non passa attraverso i canali tradizionali. I Quintanilla sono teenager fuori dal comune che imparano a crescere condividendo l'esperienza della musica e dei costanti spostamenti per le esibizioni. Questo genere di vita non fa altro che cementare l'unione tra i membri della famiglia, come ricorda il padre. Eravamo una famiglia molto unita, avevamo degli interessi comuni. Viaggiavamo insieme, facevamo tutto insieme. I miei figli per me erano come degli amici. E credo che all'epoca non ci fosse nessun locale o sala da ballo in Texas in cui non fossimo stati a suonare per qualche festa, matrimonio o convegno. Praticamente non ci pagavano e molte porte ci venivano chiuse in faccia. Però noi continuavamo a bussare e alla fine abbiamo avuto ragione. Gli sforzi e i sacrifici della famiglia Quintanilla vengono ripagati nel 1985, quando la 14enne Selina registra il suo primo album con un'etichetta locale. L'album non si trova nei negozi, ma viene distribuito e venduto dagli stessi membri della famiglia Quintanilla. Il padre, in seguito, riuscirà a ricomprare tutte le copie originali del disco, che verrà ristampato nel 1995 con il titolo Mis Primeras Grabaciones, le mie prime incisioni. Alla fine degli anni Ottanta, Selina si colloca nel panorama del genere Tex-Mex, o meglio Tejano, come lo chiamano da quelle parti, in qualità di star assoluta. Selina, grazie a una voce strepitosa e all'aspetto attraente, sa aggiungere un tocco glamour a un panorama musicale, quello latino, che è di sicuro importante e apprezzato da milioni di persone negli Stati Uniti e in Sud America, ma che ha bisogno di svecchiarsi un po'. Selina è la ventata di freschezza, di speranza, di novità, di riscatto, che milioni di persone stavano aspettando. Selina ha cominciato vincendo il Female Vocalist Award, poi nel giro di un anno, era il 1987, da quel momento in poi ha cominciato a vincere tutti i premi possibili. Per i Quintanilla iniziano a fioccare le offerte discografiche. Prima la Sony, poi la Capitol Records tentano di accaparrarsi il talento di Selina. Nel 1988 pubblica due album, Preciosa e Dulce Amor. Il successo sembra essere inarrestabile. Nel 1989 José Bejar, già direttore della Sony per il mercato latino, decide di prendere Selina sotto contratto con la EMI, sicuro di avere scoperto la nuova Gloria Estefan. Ma la consacrazione per Selina, in quello stesso anno, passa anche attraverso uno dei simboli più persistenti della cultura americana, la cultura in cui lei è nata e cresciuta, nonostante le sue origini messicane e il suo presente votato alla musica latina. That feeling that makes che avete appena sentito è lo spot televisivo della Coca-Cola, di cui Selena è la testimonial ufficiale in Texas. I suoi concerti cominciano a radunare centinaia di migliaia di persone. Canta in spagnolo, ha origini messicane, ma è anche profondamente radicata, come accade alle persone che crescono negli Stati Uniti, alla cultura americana. Una combinazione davvero esplosiva, in grado di ottenere un successo trasversale e duraturo. E ancora una volta il signor Quintanilla a rimarcare l'importanza dell'interesse di un marchio così importante, la Coca-Cola, per l'esplosione della carriera della figlia. Abbiamo avuto la benedizione della Coca-Cola, che è stato un nuovo gradino del successo che stavamo già avendo con il gruppo e con Selena. Questo ci ha permesso di avere moltissima visibilità. Abraham Quintanilla è la mente dietro al successo di Selena e dei suoi fratelli. È lui a occuparsi della gestione dei membri del gruppo musicale che non fanno parte della famiglia e vuole assicurarsi che nessun agente esterno possa intaccare la perfezione della macchina produttiva che ha creato con tanti sacrifici. Le cose però non vanno sempre lisce. Avevamo un chitarrista e un giorno si è sposato e sua moglie lo ha letteralmente trascinato via dal mondo della musica. Così ci siamo trovati senza un chitarrista. E mio figlio Abe conosceva già Chris, quindi... Chris è Chris Perez, il musicista che nel 1990 entra a far parte della famiglia allargata dei Quintanilla, sostituendo il precedente chitarrista. Chris è una forza della natura, un vero appassionato del rock, un ragazzo che sembra stonare con l'aria per bene del gruppo formato famiglia, come ricorda il signor Quintanilla. Abe portò Chris da me e io lo trattai male e mi comportai come una specie di gangster. Gli dissi che noi facevamo un genere musicale diverso dal suo, ma lui insisteva e quindi alla fine ho detto «Ok, proviamoci». È così che Chris è entrato nel gruppo. La nuova combinazione tra il talento dirompente di Selena come cantante e animale da palcoscenico, unito alla sensibilità musicale di Chris, darà vita a una svolta. Selena e Los Dinos smettono di cantare le canzoni che il padre ha confezionato per loro fin da quando sono bambini e iniziano un personale percorso di maturazione artistica che fonde l'allegria delle radici ispaniche con i riff di chitarra più moderni e accattivanti. La vita in perenne tournée, su e giù dai tour bus e dentro e fuori dagli hotel, inevitabilmente favorisce l'amore tra colleghi. Ben presto, infatti, scoppia la passione tra Chris e Selena, osteggiata dal padre che non vuole interferenze nella carriera musicale della figlia e dell'intero gruppo. Quella tra Selena e Chris, però, non è una semplice cotta. I due sono davvero innamorati e sorprendono tutti con un gesto eclatante, considerata la loro giovanissima età. La sorella di Selena, Suzette, ricorda divertita il momento della scoperta. Ma non potrò mai dimenticarmelo, mi chiama mio padre, stavo facendo la spesa in un centro commerciale e mi dice «L'ha fatto!» Io gli chiedo «Fatto cosa?» E lui «Si è sposata!» La vita privata di Selena procede a gonfie vele e altrettanto fa la sua carriera artistica. Al di là del grandioso successo nell'ambito musicale, Selena continua a essere una ragazza di 20 anni con i suoi vezzi e le sue piccole manie. Le piace disegnare abiti, prendersi cura del suo aspetto, far risaltare il più possibile la sua bellezza esteriore, mischiandola alla potenza innata della voce che le viene da dentro. Le donne latine hanno bisogno di un modello cui ispirarsi e Selena è perfetta per lo scopo. Selena è una giovane donna dai tratti ispanici, ha lunghi capelli neri e un corpo sinuoso, curvilineo, prorompente, così lontano dai modelli che all'inizio degli anni 90 vanno per la maggiore tra le ragazze anglosassoni. Selena vuole che la sua filosofia di bellezza, messicana e meticcia, sia a portata delle sue fan. Sull'onda della sua strepitosa popolarità, apre negozi di abbigliamento e saloni di bellezza e crea una linea di profumi. Il riscatto per le ragazze di origine ispanica è finalmente a portata di mano. I progetti imprenditoriali non distolgono Selena dall'impegno musicale e la sua dedizione viene ricompensata nel 1993, quando la cantante si aggiudica il suo primo Grammy Award. È lei stessa a raccontare in un'intervista a un'emittente messicana l'emozione di quella sera. Stavo contenta di essere solamente nominata. Io ero contenta anche solo di essere stata nominata. Ero così emozionata all'idea di stare tra tutte quelle star che ero abituata a vedere in TV. E avevo con me la mia macchina fotografica per fare foto con tutte quelle celebrità. Ma la macchina fotografica quella sera l'ho persa. Però sono tornata a casa con un Grammy. Ormai consacrata nell'Olimpo della musica, Selina è pronta per fare un altro grande salto, quello sul grande schermo. L'occasione arriva nel 1994 ed è decisamente ghiotta, come racconta lei stessa. It's a movie where Don Juan De Marco. Il film si intitola Don Juan De Marco, è con Johnny Depp e Marlon Brando. Io recito solo una piccola parte, ma per me è già una specie di record. E in ogni caso essere in un film con Marlon Brando è grandioso. Gli addetti ai lavori l'hanno ormai intuito. Il potenziale di Selina è troppo grande per lasciarla relegata al mercato discografico ispanico. Insieme ai produttori della EMI, Selina inizia a registrare un album di canzoni in inglese dal titolo Dreaming of You. L'uscita del disco è prevista per l'estate del 1995. Reduce da una già brillante carriera e proiettata verso un futuro ancor più strabiliante con un nuovo disco e un cameo in una grossa produzione hollywoodiana accanto a star di fama planetaria. È questa la Selina che accoglie i suoi 67.000 fan adoranti all'Astrodome di Houston il 26 febbraio del 1995. Il pubblico è invisibile. Il successo, la fama, il plauso del pubblico e l'amore della famiglia, tuttavia, non potranno salvarla dalla tragedia che incombe. Abraham Quintanilla nota qualcosa di strano, di morboso nel comportamento di Yolanda Saldivar, presidentessa del fan club della figlia, nonché sua stretta collaboratrice e confidente. Ho cominciato a notare un'ossessione nei confronti di Selina. Credo che Yolanda stesse vivendo la sua vita attraverso Selina. I sospetti del signor Quintanilla vanno al di là di una mera questione di atteggiamento. È convinto che la Saldivar si stia approfittando della fiducia di Selina per sottrarre soldi alle casse delle sue boutique. Non riuscendo a ottenere giustificazioni chiare da parte della donna, Abram decide di licenziarla. La Saldivar, disperata e con le spalle al muro, chiede a Selina un ultimo incontro chiarificatore. E in quel mattino, di quel fatidico giorno di marzo in cui Selina accetta di incontrare Yolanda al motel Days Inn di Corpus Christi, forse ancora sperando in un errore del padre e degli altri suoi collaboratori, forse ancora desiderosa di riabilitare la Saldivar all'interno della sua famiglia, Selina si presenta ignara all'appuntamento col suo destino. Selina chiede a Yolanda i documenti necessari per verificare correttamente i bilanci. La donna prende tempo, fingendosi vittima di un'aggressione sessuale subita poche ore prima in Messico, che si rivela infondata non appena Selina decide di accompagnarla in ospedale per gli accertamenti. Una volta tornate al motel, Selina chiede nuovamente a Yolanda di restituirle i documenti. È stanca delle sue bugie, vuole solo recuperare le carte che le servono e allontanarsi per sempre da quella donna ingrata e inaffidabile. Nasce un violento litigio e alle 11.49 la Saldivar estrae una pistola dalla sua borsetta e la punta prima alla propria testa e poi verso Selina. Non appena Selina si volta per uscire dalla stanza, la donna le spara un unico colpo alla schiena, uno solo, fatale. È il 31 marzo del 1995 quando il glorioso passato e l'esaltante futuro di Selina si congelano in un terreo presente. Ma c'è un'altra donna di origini ispaniche che in quello stesso giorno, in qualche sala prove, palestra o audizione in giro per gli Stati Uniti, sta lottando per la sua fetta di successo. Questa donna è la nostra seconda protagonista di oggi e ancora non immagina che il suo destino sia indissolubilmente legato alla scomparsa di Selina. The way I feel, I might lose control and let you stay. Destini incrociati. Il 31 marzo del 1995, la pop star Selena, idolo delle platee sudamericane meticce, simbolo del riscatto di un'intera comunità e pronta per spiccare il volo verso la consacrazione internazionale, viene uccisa a sangue freddo dalla presidentessa del suo stesso fan club, Yolanda Saldovar. Per la comunità latinoamericana è uno shock insostenibile. Oggi a Corpus Christi oltre 10.000 persone si sono radunate al funerale di Selena per dirle addio tra lacrime e dolore. Ecco il servizio dal nostro inviato speciale sul posto. Quella di Selena è una morte ingiusta, inspiegabile, nonostante la chiarezza gelida e disarmante delle circostanze in cui è avvenuta. Eppure c'è qualcuno che da questa morte è riuscito a trarre qualcosa di positivo. Nel 97, a 2 anni dalla tragedia, la famiglia Quintanilla decide di realizzare un film che celebri la vita e la carriera della giovanissima stella scomparsa. Alle audizioni per ottenere il ruolo di protagonista ci sono più di 20.000 attrici. Sono tutte ansiose di perpetrare il mito di Selena, l'icona Tex-Mex costretta dal fato e dalla brutalità umana ad andarsene prematuramente. Solo una tra queste 20.000 avrà la parte. Quest'unica donna, colei che sbaraglia le altre candidate ai provini, è la seconda protagonista di oggi. Come Selena, ha origini latine, più precisamente portoricane, ma è nata e cresciuta negli Stati Uniti. Come Selena, anche lei è una semplice ragazza in cerca di successo e di riscatto. Il suo nome è Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. How much? Jennifer, è cambiata la tua vita dopo il film su Selena? Diresti che c'è una fase pre-Selena ed una fase post-Selena? La mia vita è cambiata molto, moltissimo. All'improvviso la tua esistenza subisce una rivoluzione e tu ripeti a te stessa: «Ehi, fermati un attimo, volevi solo fare l'attrice, no? Ma vuoi anche continuare a fare tutto il resto, andare a fare la spesa, andare in giro, cose così, normali. Ma ti rendi conto che non sei più una persona normale e devi cercare di prenderti il tuo tempo per tornare ad essere te stessa». Esistono un prima e un dopo Selena per Jennifer. La sua carriera e la sua vita sono drasticamente cambiate dopo la sua interpretazione della pop star texana. Per capire meglio la portata di questo cambiamento ed esplorare le conseguenze che esso avrà su Jennifer e sui suoi futuri milioni di fan, è doveroso fare di nuovo un passo indietro. Il Bronx era tutto quel che conoscevo. Non avevo idea che fosse un posto difficile. Per me era semplicemente il posto dove ero nata e cresciuta. Conoscevo tutti i miei vicini. C'erano un sacco di ragazzi della mia età in giro. A me sembrava un posto normale. Jennifer Lopez nasce il 24 luglio del 69 nel cuore multietnico di New York, il Bronx. I genitori, uno specialista informatico e una maestra d'asilo, si sono trasferiti a New York da Ponce, Puerto Rico. La prima preoccupazione della madre, visto l'ambiente difficile in cui è costretta a crescere le sue figlie, è tentare di tenerle lontane dalla strada, incoraggiandole piuttosto a organizzare piccoli spettacoli nel soggiorno di casa. Le ragazze amano esibirsi. Sembrano nate per calcare i palcoscenici, più che le assi malandate del pavimento di casa. Jennifer, in particolare, mostra un talento precoce. A 5 anni insiste per cominciare a prendere lezioni di danza. Già da bambina sa cosa vuole e dove vuole arrivare. Buttarmi nel mondo dello spettacolo. Credo che chiunque abbia pensato che ero pazza. La prima volta che ho detto che volevo sfondare, ballare, cantare, fare l'attrice. Nessuno nel posto in cui abitavo aveva mai fatto niente del genere. Jennifer cresce in un quartiere in cui oltre l'80% della popolazione è composto da minoranze etniche. Di questo 80%, più del 50% è di origini ispaniche, messicani, portoricani principalmente. È inevitabile che la giovane cresca intrisa di voglia di riscatto, non perché senta il bisogno di rinnegare le sue origini umili e latine, tutt'altro. Jennifer sogna per se stessa e per la gente del suo quartiere e del suo mondo un futuro roseo e di successo. Sente che un giorno ce la farà e sa che quando arriverà quel momento saprà guardarsi indietro e continuare ad abbracciare idealmente le sue origini. Jenny in fondo resterà sempre la ragazza portoricana del Bronx e porterà sempre questa bandiera con fierezza. Decisa a imparare seriamente a ballare, a 18 anni Jennifer lascia il Bronx e si trasferisce a Manhattan. ha vinto una borsa di studio che le consente di iscriversi a una scuola di danza, ma non le basta di certo per pagarsi regolarmente l'affitto. Quando me ne sono andata di casa e mi sono allontanata dalla mia famiglia, beh, sono stati tempi duri. Ero da sola ed ero giovane, avevo 18 anni, dovevo cavarmela da sola. Avevo un lavoretto part-time in uno studio legale e al pomeriggio prendevo lezioni di canto e ballo. Ed era un vero casino. Vivevo con 3 o 4 coinquiline, dormivamo a turno sul pavimento, mangiavamo pizza ad ogni pasto perché costava poco. È così che vivevo. Dividere un minuscolo appartamento con 3 o 4 persone è sempre meglio che dormire sui divani della scuola di danza. Jennifer lo sa, per esperienza. La vita per lei non è facile. Il suo sogno di successo la costringe a una vita faticosa, scandita da orari massacranti. Divide il suo tempo fra il lavoro part-time in uno studio legale, le lezioni di danza e gli spettacoli di ballo nei nightclub di Manhattan. Niente si crea da solo. Devi davvero dedicare a questo lavoro la maggior parte del tuo tempo. Prendertene cura, appassionarti a quel che stai facendo, proiettarti sempre un passo più avanti. Cose così. All'inizio degli anni 90, Jennifer ottiene una parte con Fly Girl nello show televisivo In Living Color. Lei è uno degli scatenatissimi elementi del corpo di ballo e si diverte a mettere in pratica quanto appreso durante il durissimo periodo delle lezioni nella prestigiosa scuola di danza di Manhattan. È così brava, così decisa, così motivata a emergere che il suo talento non può passare inosservato a un occhio esperto. Ad adocchiarla, infatti, è una leggenda vivente della musica pop, Janet Jackson, che la vuole con sé nel video del brano That's the Way Love Goes. La collaborazione con Janet Jackson le regala la visibilità che cercava per approdare ai cuori delle grandi platee. È sul grande schermo che Jennifer sente di poter davvero sfondare. La precoce passione per la danza non era che l'avvisaglia, il sintomo della presenza di un talento più composito e multiforme. Nel 95 Jennifer ottiene un piccolo ruolo in My Family, racconto epico di 3 generazioni di immigrati di origine ispanica. Il regista della pellicola, Gregory Nava, nota immediatamente il suo carisma. Un anno più tardi, Nava ritrova Jennifer ai provini per il suo prossimo film. È un film cui il regista tiene molto. Si tratta della biografia di una cantante recentemente scomparsa in tragiche circostanze. Nava era un suo fan accanito. Stiamo parlando ovviamente di Selena. C'era davvero molta pressione su tutti quelli che lavoravano al film, perché lei era davvero un personaggio molto amato e quindi il nostro era un lavoro enorme, c'erano tantissimi dettagli da sistemare. Il ricordo di lei poi era ancora così fresco nella mente del pubblico, la ricordavano alla perfezione. Temevano che qualcuno non fosse in grado di interpretarla, mentre noi volevamo solo rendere il suo personaggio in modo vero. Ed è stata questa la parte difficile. Per Jennifer si tratta del primo grande ruolo da protagonista. 64.000 comparse si presentano spontaneamente allo Houston Astrodome per ricreare l'atmosfera dell'ultimo grandioso concerto di Selena. Jennifer ha conquistato i loro cuori. Sa che tutto, d'ora in poi, andrà a gonfie vele. Destini incrociati. A Destini incrociati abbiamo ormai doppiato la metà degli anni 90, ripercorrendo le vite di 2 giovani donne, Selena Quintanilla e Jennifer Lopez. 2 ragazze piene di sogni, ansiose di catalizzare le speranze di milioni di fan, a partire dalle minoranze latinoamericane e su, fino alle vette dello stardom internazionale. Una è messicana, l'altra portoricana. Entrambe sono dotate di talenti multiformi. La stella di Selena, purtroppo, ha smesso di brillare in un mattino di marzo. Era la primavera del 1995 ed era anche la promettente, esaltante primavera della sua carriera. L'assassina di Selena, l'ex collaboratrice Yolanda Saldivar, il 23 ottobre di quello stesso anno viene condannata all'ergastolo. Nonostante tutte le prove indichino la sua colpevolezza, lei continua a proclamarsi innocente. Secondo la Saldivar, si è trattato di una tragica fatalità. Il colpo di pistola le è partito incidentalmente. La pistola era rivolta alla sua tempia, nell'intento di porre fine alla sua stessa vita. Mi dipingono come un mostro, ma io voglio solo far sapere che non ho ucciso Selina. È stato un incidente, io ho la coscienza pulita. Il vuoto lasciato da Selina nella famiglia Quintanilla e in quella decisamente più allargata dei suoi fan sembra essere incolmabile. Si cerca comunque di portare avanti il suo ricordo, di farla rivivere in qualche modo attraverso gli oggetti che le appartenevano, gli abiti di scena, i premi vinti, persino il suo microfono preferito. Dopo quello che è successo, molta gente ha cominciato a venire qui per vedere le cose che appartenevano a Selina. Così, insieme a tutta la famiglia, abbiamo deciso di costruire il museo. A Corpus Christi, Texas, nel barrio dove si radunavano i suoi affetti e dove sentiva di poter respirare il mix rassicurante delle sue origini meticce, i Quintanilla le dedicano un museo. Ma non basta per farla rivivere. La rivorrebbero in carne ed ossa. Un film potrebbe essere la soluzione giusta, sia per placare temporaneamente il loro dolore e quello dei fan, sia per celebrare Selina, anche se su uno schermo cinematografico e attraverso il corpo e le sembianze di qualcun altro. Jennifer Lopez è perfetta per interpretare la parte di Selina. Il suo background latino, le sue curve, il suo talento non faranno certo sfigurare quelli della giovane stella del Texas. È la stessa Jennifer a raccontarci della ferma volontà dei Quintanilla di impegnarsi perché il film venga realizzato con estrema cura. Sono stati molto forti. Hanno combattuto per fare questo film, per evitare che fosse qualcun altro a farlo, qualcuno che raccontasse una storia sbagliata o falsa. Sono stati coraggiosi. Hanno visto il potenziale insito in questa storia, anche se per loro era doloroso. Sono stati incredibili. Jennifer unisce la volontà della famiglia Quintanilla con le sue ambizioni di gloria e il risultato è strepitoso. Quanto spesso capita di vedere una latina che recita in un ruolo da protagonista in un film, che cammina sul red carpet mentre la folla grida al suo passaggio? Per me è davvero un sogno che diventa realtà. Per Jennifer è davvero arrivato il momento di alzare la voce e far vedere a tutto il mondo di cosa è capace una ragazza latina cresciuta nel Bronx. Da protagonista nel film su Selina, ha spalancato a Jennifer le porte di Hollywood. A volerla sono grandi registi del calibro di Steven Soderbergh, che la dirige in Out of Sight, al fianco di George Clooney, e Oliver Stone, che la fa recitare nel drammatico U-Turn in versione di marcia, in mezzo a star del calibro di Sean Penn, John Voight e Nick Nolte. E Oliver Stone in persona a intessere le sue lodi. Mi ricorda quelle vecchie glorie del cinema degli anni 30, 40, come Lana Turner, Rita Hayworth, Joan Crawford. Ha un carisma particolare. È un gran bel culo. Agli sgoccioli del secondo millennio, la stella di Jennifer Lopez splende alta nel firmamento del cinema. Ma la passione per la musica, connaturata a quella per il ballo, non l'ha mai abbandonata. Jennifer sa bene che il suo talento non può e non vuole restare confinato in un unico medium. Ha bisogno di spaziare, di continuare a dimostrare a se stessa e al mondo intero di essere una donna capace, emancipata, in grado di rappresentare un faro, una guida, un modello per milioni di fan, latinos e non, sparsi in giro per il mondo. Io non faccio il mio lavoro con lo scopo di essere un modello per gli altri. Non è questo il mio obiettivo. Lo faccio perché questo è quel che mi piace fare. Volevo fare l'attrice, questo era il mio scopo. Però, se quel che faccio è una fonte di ispirazione per qualcun altro, beh, questa è una cosa meravigliosa. Si parlava di talenti multiformi, dell'ansia di provare la propria abilità sotto diversi punti di vista. Nel 99 Jennifer ha una nuova occasione per confermare le immense attese del suo pubblico. Il suo album di debutto, On the Six, ad appena una settimana dall'uscita, balza all'ottavo posto nella classifica dei 200 album più venduti pubblicata dalla prestigiosa rivista Billboard. Il disco è trascinato dal primo singolo estratto, If You Had My Love. che raggiunge immediatamente la posizione numero uno. Jennifer è cresciuta. Ha vissuto gli anni della dura gavetta, dei provini insieme ad altre migliaia di candidate, e ce l'ha fatta. Proprio come Selina, inoltre, ha disegnato una linea di abbigliamento e creato una serie di profumi. Un modo per esprimere i suoi variegati talenti, ma anche per soddisfare le richieste delle sue fan, bisognose di un appiglio per somigliarle, per starle vicino, per sentire la presenza del loro idolo nella loro vita. Non è stato facile arrivare fino a qui, ma di certo Jennifer aveva un ottimo modello a cui ispirarsi. Ho imparato così tante cose da Selina. Cose belle, come vivere la vita giorno per giorno, essere disposta a fare sacrifici, non darmi per vinta per nessun motivo e credere che l'amore vero esiste. L'amore in senso lato, questo è quello che intende Jennifer. L'amore per il proprio lavoro, per i propri fan, per la propria famiglia, uniti alla gioia di riguardare indietro al proprio passato con soddisfazione, nonostante le insidie della scalata verso il successo. Nel 2005, a 10 anni dalla scomparsa di Selina, Jennifer accetta di partecipare a un mega concerto tributo, sempre all'Astrodome di Houston. Qui all'Astrodome di Houston sono passati 10 anni dall'ultimo concerto di Selina. Questi spalti hanno dato l'addio alla sua voce, eppure ancora si possono sentire la sua presenza, la sua energia, la sua magia e la sua musica. Siamo qui per celebrare la stella che tante volte ci ha fatto emozionare, cantare e sognare. Una stella la cui luce brillerà per sempre. Questa sera uniremo il passato al presente, perché per noi Selina vive. Perché Selena vive. Selina se n'è andata a un passo dalla consacrazione definitiva, ma qualcuno ha idealmente raccolto il suo testimone. Jennifer è la sua erede nei cuori di milioni di fan. L'ha impersonata, l'ha fatta rivivere sul grande schermo, ha compiuto il miracolo dell'esplosione del suo talento nel campo della danza, del cinema, della musica, miracolo che purtroppo Selina non ebbe il tempo di realizzare. Sembra impossibile, eppure la Lopez ha davvero tratto qualcosa di buono da una tragedia senza senso. È la stessa Selina a ricordarcelo. Io ho sempre creduto che l'impossibile fosse possibile. L'impossibile è possibile. Questo è l'insegnamento di Selina. E forse come estremo tributo alla sua figura, Jennifer sceglie di pubblicare nel 2007 il suo primo disco di canzoni in spagnolo, dal titolo Como ama una mujer, come ama una donna. E ormai sappiamo bene come ama una donna latina, con passione, intensità e irriducibile coraggio. ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Ay, yo no sé si volveré. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.